dove vanno i ragazzi quando chiudono i caffè, quando il sole a mamma luna fa l'inchino. Dove vanno quei pazzi quando il sonno non c'è e la musica si sposa con il vino. Vanno in cerca di un angolo tranquillo, giusto lì, vicino a quello dove io andavo tempo fa. Dove vanno i ragazzi quando il mondo va a dormire e li lascia in solitudine a soffrire? Dove vanno i ragazzi quando accendono i lampioni e rimangono da soli canticchiando due canzoni? Dove vanno i ragazzi? Dove vanno? Chi lo sa? Forse inseguono le voglie dell'età. Dove vanno i ragazzi? Non te lo ricordi più. Vanno giusto dove un giorno andavi tu. Quando spunta primavera e sui prati puoi raccogliere le stelle, e l'estate, l'estate, quando scende la sera sulle spiagge coi sogni sulla pelle. Dove vanno?